Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Introduzione di Massimo Cacciari. Il gioco delle perle di vetro è il romanzo di Hesse che praticamente gli diede fama internazionale e il premio Nobel, suscitando l'entusiasmo anche di difficili lettori come Thomas Mann. E certo l'immaginazione di questo libro, l'immagine complessiva di questo libro è grandiosa. Cosa si pensa, cosa si immagina? Qualche secolo dopo l'epoca guerriera, che è la nostra, che sarebbe la nostra, il XIX-XX secolo, quindi dopo qualche secolo dopo la modernità, che viene raffigurata come un'atroce epoca di distruzione, di dissoluzione, di disgregazione di ogni valore, e anche insieme l'epoca della chiacchiera, no? L'era appendicistica o della terza pagina, l'era delle conferenze in cui tutti parlano di tutto senza alcuna competenza specifica, cioè un'epoca di confusione e di dissoluzione, il mondo sembrerebbe reagisce a questa epoca di dissoluzione coltivando di nuovo lo spirito, cioè la ricerca di concordia e unità, una sorta di nuovo umanesimo, ecco, in reazione alla nostra epoca, all'epoca appunto del moderno, all'epoca guerriera, come si dice nel libro. Questa reazione coltiva di nuovo le alte regioni dello spirito in tutti i suoi campi e fonda una educazione, o meglio una autorità educativa, che sovrintende tutti gli sforzi appunto educativi del paese. All'apice di questa nuova educazione, di questo nuovo umanesimo, sta il gioco delle perle di vetro. Cos'è questo gioco delle perle di vetro? Che viene coltivato appunto dalle massime autorità educative del paese, di questo non ben definito, non ben individuato paese, che sorge appunto dalle rovine dell'epoca dei massacri, cioè del moderno, della nostra epoca. In cosa consiste questo gioco? L'autorità educativa è articolata per specialisti, no? Tutti all'interno, gli educatori, chiamiamoli così, sono in tutti i diversi campi i massimi specialisti, sono i massimi conoscitori nel campo filologico, nel campo matematico, nel campo musicale, e nello stesso tempo non stanno costretti o non sono mai contenti all'interno della loro disciplina, no? Non si accontentano mai del proprio specialismo e danno vita a questo grande gioco, il gioco delle perle di vetro. E Hesse immagina una sorta di ars combinatoria o di ars mnemonica, reinventa la grande tradizione mnemotecnica da Lullo a Giordano Bruno fino al grande Leibniz, che è forse proprio l'autore che sotterraneamente ispira tutto questo romanzo di Hesse. Questi monaci, perché tali sono, che danno vita, che costituiscono questa somma autorità, perché vivono proprio da monaci, fanno voto di castità, sono separati dal mondo e coltivano i loro specialismi e la grande arte del gioco delle perle di vetro. In che cosa consiste questo grande gioco? Tutte le conoscenze, tendenzialmente tutte le conoscenze in tutti i campi vengono espressi attraverso simboli, segni, geroglifici, e questi diversi specialismi poi danno vita appunto a varie combinazioni tra di loro. È un'ars analogica per eccellenza, no? Che dà vita a infinite combinazioni. Le combinazioni tra questi diversi segni o geroglifici sono illimitati. Facciamo un esempio, ecco, allora un gioco potrebbe essere come una forma architettonica si combina con un'idea filosofica o con un'idea musicale, ma anche al di là di ogni differenza spazio-temporale, come il simbolo della casa cinese potrebbe combinarsi con una melodia del 600, del 700 europea, eccetera. Ma questi giochi non debbono avere nulla di dilettantistico, non debbono essere fatti ad orecchio, sono fondati sul più rigoroso specialismo, su un linguaggio e su una chiarezza, diciamo così, cartesiane. Ecco, senza nessun slancio romantico, senza nessun entusiasmo sentimentale. Il protagonista di questo libro, Knecht, che vuol dire servo, servus, noi lo chiameremo servus, è il massimo cultore di questo gioco delle perle di vetro, che avviene all'interno di questo ordine monastico che viene costituito dopo l'epoca guerriera a custodia dell'immenso biblioteca del nostro sapere, delle nostre conoscenze, che questi maestri del gioco delle perle di vetro formalizzano in questi simboli, in questi geroglifici, per giocarli insieme come su una grandissima scacchiera. L'essenza di questo spirito è musicale. Knecht è un musico, anzitutto, no? Sono musicisti essenzialmente tutti i maestri del gioco delle perle di vetro, perché la musica nasce dalla misura, che è un termine per dire anche logos, per dire ragione, e ha radici nell'uno, perché quest'arte, ovviamente, come avete capito, tende a ridurre tutti i diversi specialismi a una loro fondamentale, originaria unità. In questo libro abbiamo intenzione di registrare il materiale biografico che si è potuto trovare su Josef Knecht, il Ludi Magister Josephus III, come chiamato negli archivi del gioco delle perle di vetro. Non ci nascondiamo che questo tentativo è o sembra un poco in contraddizione con le vigenti norme e consuetudini della vita spirituale. Tant'è vero che uno dei supremi principi di questa è la soppressione dell'individualità, l'inserimento, possibilmente perfetto, della persona singola nella gerarchia dell'autorità pedagogica e delle scienze. Questo principio, infatti, per lunga tradizione, è stato attuato fino al punto che oggi è assai difficile, anzi in molti casi del tutto impossibile, scoprire particolari biografici e psicologici di persone che questa gerarchia hanno servito in modo eminente. In moltissimi casi non si riesce nemmeno a stabilire i nomi delle persone. Certo è che la vita spirituale della nostra provincia si distingue per il fatto che la sua organizzazione gerarchica ha per ideale l'anonimo e si avvicina di molto all'attuazione di questo ideale. Se ciò nonostante abbiamo insistito nel nostro tentativo di stabilire alcuni particolari della vita del Ludi Magister Josephus III, e di abbozzare per accenni l'immagine della sua personalità, non lo abbiamo fatto per un culto della persona o in spregio ai costumi, ma al contrario, soltanto per servire la verità e la scienza. Non è nuovo il concetto che quanto più una tesi riceve acuta e inesorabile formulazione, tanto più irresistibilmente essa richiama l'antitesi. Noi approviamo e rispettiamo il concetto sul quale si basa l'anonimità delle nostre istanze e della nostra vita spirituale. Ma un'occhiata alla preistoria di questa vita, specie allo sviluppo del gioco delle perle di vetro, ci mostra con evidenza che ogni stadio di sviluppo, ogni ampliamento, ogni modificazione, ogni intervento essenziale, sia esso progressista o conservatore, rivela in modo innegabile, se non il suo unico e vero autore, certo però il suo volto più preciso proprio nella persona di colui che introdusse la modificazione e fu lo strumento della metamorfosi e del perfezionamento. Soltanto negli eroi, in questi uomini esemplari, l'interessamento per la persona, per il nome, il volto, il gesto, ci sembra lecito e naturale, perché anche nella gerarchia più perfetta, nell'organismo più scorrevole, non scorgiamo affatto una macchina composta di parti morte e in sé indifferenti, bensì un corpo vivo, formato di parti e animato da organi, ognuno dei quali possiede una sua natura e una sua libertà e partecipa delle meraviglie della vita. In questo senso, ci siamo affaticati a cercare notizie sulla vita di Joseph Knecht, maestro del gioco delle perle. Le comunicazioni che potremo fare sulla persona e la vita di Knecht sono certamente già note in tutto o in parte ai membri dell'ordine, specie ai giocatori di perle, e non fosse altro per questa ragione, il nostro libro si rivolge non solo a questa cerchia, ma spera di trovare anche al di fuori di essa lettori benevoli. Per quella cerchia ristretta, il nostro libro non avrebbe bisogno di introduzione o di commento, ma siccome ci auguriamo lettori della vita e degli scritti del nostro eroe anche fuori dell'ordine, ci spetta il compito, piuttosto difficile, di premettere al libro, per i meno preparati, una breve introduzione popolare sul significato e la storia del gioco delle perle di vetro. Ripetiamo che questa introduzione è e vuole essere popolare e non pretende di far luce su problemi del gioco e della sua storia, che sono in discussione entro l'ordine stesso. Non è giunto ancora neanche lontanamente il tempo di esporre quest'argomento in forma oggettiva. Non ci si aspetti dunque da noi un'esauriente storia e teoria del gioco delle perle. Oggi non la saprebbero dare neanche autori più degni e più abili di noi. Questo compito è riservato a epoche a venire, sempre che non se ne perdano prima le fonti e le premesse spirituali. Ancor meno il nostro capitolo vuole essere un manuale del gioco delle perle, perché un simile manuale non sarà scritto mai. Le regole di questo gioco dei giochi non si imparano se non per le vie consuete e prescritte, attraverso anni, e nessuno degli iniziati potrebbe mai desiderare che si possano apprendere con maggiore facilità. Queste regole, il linguaggio figurato e la grammatica del gioco, sono una specie di linguaggio esoterico sommamente evoluto, che comprende parecchie scienze e arti, massime la matematica e la musica, o musicologia, ed è capace di esprimere e mettere in rapporto tra loro il contenuto e i risultati di quasi tutte le scienze. Il gioco delle perle è dunque un modo di giocare con tutti i valori e col contenuto della nostra civiltà. In fin dei conti, dipende dall'arbitrio dello storico, fin dove egli voglia far risalire gli inizi e la preistoria del gioco delle perle di vetro. Infatti, come tutte le grandi idee, esso non ha un vero e proprio inizio, ma come idea c'è sempre stato. Come idea, presentimento e aspirazione, lo troviamo già in qualche epoca passata, come per esempio in Pitagora, poi nel tardo periodo della civiltà antica, nei circoli gnostico-ellenistici, come pure presso gli antichi cinesi, poi ancora nei punti culminanti della vita spirituale mauro-araba, mentre in seguito le vie della sua preistoria ci portano, attraverso la scolastica e l'umanesimo, alle accademie di matematici dei secoli XVII e XVIII, alle filosofie romantiche e alle rune dei sogni magici di Novalis. Ogni moto dello spirito verso la meta ideale di una universitas litterarum, ogni accademia platonica, ogni convivenza di un'elite spirituale, ogni tentativo di avvicinamento fra le scienze esatte e le scienze più libere, ogni sforzo di conciliare la scienza e l'arte o la scienza e la religione, ebbero il loro fondamento in quella stessa idea eterna che per noi si è concretata nel gioco delle perle. Dunque, se anche l'idea del gioco è eterna e quindi esistette e si agitò molto tempo prima della sua attuazione, il concretarsi di essa, nella forma che ci è nota, ha tuttavia una sua storia della quale tenteremo di esporre brevemente le tappe più importanti. Il movimento spirituale, i cui frutti sono, tra molti altri, l'istituzione dell'ordine e il gioco delle perle di vetro, si inizia in un periodo che, dopo gli studi fondamentali dello storico della letteratura Plinius Ziegenhals, reca il nome da lui coniato di «era appendicistica» o della terza pagina. Nomi siffatti sono belli, ma pericolosi, e inducono sempre a considerare ingiustamente qualche situazione della vita umana del passato. Tanto è vero che anche l'era appendicistica non è stata affatto priva, anzi nemmeno povera, di spirito. Ma non sapeva usarlo, a quanto dice Ziegenhals, o piuttosto non seppe assegnargli, nell'economia della vita e dello Stato, posizione e funzione ad esso consone. A dire il vero, conosciamo molto male quell'epoca, benché sia il terreno dal quale è sorto quasi tutto ciò che oggi costituisce il carattere della nostra vita spirituale. Secondo Ziegenhals, fu un'epoca particolarmente borghese e favorevole a un largo individualismo. Thank you. Nell'incertezza e nella falsità della vita spirituale di quel tempo, che pure dimostrò grandezza ed energia in parecchi altri riguardi, noi oggi vediamo un sintomo dello sbigottimento che colpì lo spirito quando, al termine di un periodo di apparenti vittorie e prosperità, si trovò all'improvviso davanti al nulla, a una grande miseria materiale, a un periodo di burrasche politiche e guerresche e ad una repentina diffidenza verso se stesso, verso la propria forza e dignità, persino verso la propria esistenza. Eppure, in quel periodo in cui pareva che il mondo dovesse finire, si videro ancora creazioni intellettuali elevatissime, fra l'altro gli inizi di una scienza musicale della quale siamo gli eredi riconoscenti. Ma durante i decenni di transizione, quella civiltà non era rimasta immersa nel sonno, anzi, proprio durante la decadenza e l'apparente abbandono da parte degli artisti, dei professori e degli scrittori di appendici, fu nella coscienza di alcuni più che mai desta e assoggettata ad esame. Già nel periodo florido della terza pagina si ebbero dappertutto singoli gruppi e gruppetti decisi a rimanere fedeli allo spirito e a salvare con tutte le forze un nocciolo di buona tradizione e disciplina, di metodo e coscienza intellettuale. Per quanto ci è oggi consentito sapere, sembra che l'autoesame, la riflessione e la consapevole opposizione alla decadenza si siano svolti principalmente in due gruppi. La coscienza civile degli eruditi si rifugiò nelle indagini e nei metodi istruttivi della storia della musica, poiché proprio allora questa scienza raggiunse un alto livello. E in mezzo al mondo giornalistico due seminari, che divennero celebri, svilupparono un metodo di lavoro esemplarmente onesto e coscienzioso. E come se il destino volesse approvare e confortare quegli sforzi di una esigua e valorosa coorte, ecco che nel periodo più triste avvenne un soave miracolo che, pur essendo un mero caso, fece l'effetto di una divina sanzione: il ritrovamento degli 11 manoscritti di Johann Sebastian Bach, già in possesso di suo figlio Friedemann. Un altro punto di resistenza alla degenerazione fu la Lega dei Pellegrini d'Oriente, i cui associati seguivano una disciplina psichica più che intellettuale e coltivavano la devozione e il rispetto. Di lì la forma odierna del culto dello spirito e del gioco delle perle ricevette impulso notevole, specie dal lato contemplativo. I Pellegrini d'Oriente ebbero anche parte nelle nuove intuizioni circa l'essenza della nostra civiltà e la possibilità che essa continui, non tanto per il loro merito scientifico-analitici, quanto per la capacità di immergersi per vie magiche in epoche e civiltà remote. Fra loro c'erano, per esempio, suonatori e cantanti che, a quanto si assicura, sapevano eseguire musiche di altri tempi nella loro piena antica purezza e suonare e cantare, ad esempio, una musica del 1600 o del 1650 esattamente come se fossero ancora ignote tutte le mode giunte più tardi, tutte le raffinatezze e tutti i virtuosismi. Così ci siamo avvicinati alle fonti delle quali ha avuto origine l'odierno concetto di civiltà. Tra le più importanti furono la novissima tra le scienze, la storia della musica ed estetica musicale e il rifiorire della matematica, che ebbe luogo poco dopo. Vi si aggiunse una goccia d'olio con la sapienza dei Pellegrini d'Oriente e, strettamente connesso con la nuova concezione e interpretazione della musica, l'atteggiamento sereno, valoroso e rassegnato di fronte al problema delle età culturali. Il risultato più notevole di questo nuovo indirizzo, o diciamo di questo nuovo inquadramento nel processo culturale, fu un'ampia rinuncia a produrre opere d'arte, il graduale distacco dello spirito dal movimento del mondo e, non meno importante, il fiore di tutto, il gioco delle perle di vetro. Thank you.